Italia in controluce, la politica nel tunnel. La puntata di oggi l'abbiamo chiamata così: occupare le camere. Questo sembra lo slogan del Movimento 5 Stelle, che oggi ha indetto una protesta annunciando l'occupazione delle aule parlamentari per sollecitare l'inizio dei lavori delle commissioni. Una scelta che è stata duramente criticata oggi dalla capogruppo, il presidente dei senatori del PD Zanda, che uscendo dalla conferenza dei capigruppi del Senato ha detto che quella di occupare l'aula è una minaccia non democratica. Perché? Perché Camera e Senato avevano detto no poco prima alla convocazione di sedute permanenti, come era stato chiesto dal Movimento 5 Stelle. Tutto questo accade in un momento in cui non c'è un governo, le forze politiche stanno discutendo anche in modo animato ma anche segreto di chi sarà il prossimo inquilino del Quirinale. Molto probabilmente domani Bersani incontrerà Berlusconi, diciamo molto probabilmente perché ancora non c'è una ufficializzazione. Secondo voi è giusto occupare le camere come intende fare oggi il Movimento 5 Stelle? È democratico o antidemocratico secondo voi? 349-238-6666, subito la linea a Elisabetta Fiorito. Sì, Daniele, allora il Movimento 5 Stelle continua questo muro contro muro con i partiti tradizionali, e anche se è arrivato il no del Senato, occuperanno sia Montecitorio sia Palazzo Madama, ovviamente un'occupazione simbolica, dalle 3 l'apertura di seduta a Montecitorio fino a mezzanotte, leggendo dei brani della Costituzione, perché chiedono l'istituzione delle commissioni parlamentari. Ma già i capigruppo al Senato hanno deciso che non è possibile instaurare le nuove commissioni, perché si deve, e questo è sempre quello che viene ripetuto al Movimento 5 Stelle, prima sapere qual è il governo e quindi chi è l'opposizione, chi è la maggioranza, perché ci sono poi delle commissioni che sono importantissime, che vengono date proprio all'opposizione, come la Commissione Vigilanza Rai o il COPASIR, il Comitato di Controllo dei Servizi Segreti. E quindi non sapere dov'è la maggioranza e dov'è l'opposizione crea confusione. Il Movimento 5 Stelle già pensa di stare all'opposizione, per cui aveva già chiesto Beppe Grillo queste due commissioni, la presidenza di queste due commissioni, però purtroppo la Costituzione è abbastanza chiara. C'è un momento di confusione in cui non si capisce, i grillini si danno appuntamento davanti a Montecitorio, anzi danno appuntamento a tutti i cittadini per dire che i partiti devono andare tutti a casa, perché si sentono di nuovo osteggiati da quelli che sono i partiti tradizionali. Però finché non si scioglie il nodo del governo, le famose commissioni non potranno essere istituite. Daniele. Allora veniamo subito ai grazie Elisabetta Fiorito per averci chiarito quello che accadrà, quindi dalle 15, giusto Elisabetta? Dalle 15 di questo pomeriggio? Niente, vabbè, con i vostri sms 349-238-6666 vi abbiamo chiesto se è giusto e democratico secondo voi occupare le camere così come vuol fare il Movimento 5 Stelle. Abbiamo da chi dice sì è giusto, sì è democratico. Rocco ci chiede se è legale l'ultima occupazione dell'aula Mussolini, no comment, dice un nostro ascoltatore. Sempre più difficile capire che cosa è servito il voto a Grillo, un altro ascoltatore. Il PD e la sinistra sono ridicoli, un altro ascoltatore. Criticano l'occupazione delle camere e poi benedicono le occupazioni studentesche, quelle dei centri sociali. È un'occupazione simbolica, dice Franco da Catania, ma li abbiamo votati per cambiare le cose. Non andando al governo non rispondono al mandato degli elettori. Tutto ciò che viene fatto contro i politici è legittimo, dice Corrado da Como. I partiti sono finiti. E questo è il punto. 349-238-6666, come sempre, tantissimi sms. Un altro, vabbè, invoca addirittura cose violente, non ve le diciamo. Ricordo che l'occupazione delle Camere con la democrazia, a mio avviso, ha veramente ben poco, anche se è un'occupazione simbolica, come dicono in molti, come dice lo stesso Movimento 5 Stelle. Io personalmente non sono d'accordo. Vediamo invece cosa è accaduto, cosa sta accadendo e cosa accadrà. Vincenzo Miglietta, queste larghe intese, il PD e PDL le faranno o no? Sì, Daniele, buongiorno, buongiorno ai nostri ascoltatori. Domanda difficile, larghe intese, al momento tutto è nel momento di stallo, come anticipavi da studio. L'incontro Bersani-Berlusconi sarà probabilmente domani. A sentire però il Bersani di questa mattina, le larghe intese sarebbero ancora lontane, e Bersani ha argomentato il perché è così scettico nel riabbracciare l'esperienza che è stata già nel governo Monti, quindi nel riabbracciare il Popolo della Libertà in un eventuale esecutivo. Bersani dice: noi abbiamo già dato, a proposito di larghe intese governissimi, io ho vissuto la fase del governo Monti, noi siamo rimasti lì e Berlusconi si è dato 3 mesi prima. E quindi dice Bersani: quando rivedrò Berlusconi gli ricorderò questo fatto. Ecco, lo scetticismo di Bersani deriva proprio dal fatto che secondo lui il Popolo della Libertà non darebbe garanzie che di fronte ad un accordo lo porti poi a termine. Però dal Popolo della Libertà insistono: senza di noi un governo non può essere realizzato, un governo che faccia le riforme necessarie al Paese. Quindi ecco, Daniele, in effetti, rispondendo infine alla tua domanda, al momento il governo di larghe intese sembra veramente solo un'ipotesi. Bene, noi, anzi male perché comunque si guarda a questa cosa, la soluzione è abbastanza complicata. Temo che sarà poi il nome di chi andrà a sostituire Giorgio Napolitano a fare la differenza, cioè subito dopo probabilmente si sbloccherà anche il governo, così come era già stato ed era già evidente fin dall'inizio. Dire che antidemocratico equivale a dire ad un'idiozia, dice Pierpaolo D'Alessandria. Il Parlamento deve già lavorare, non deve aspettare il governo, lasciate perdere pure il fascismo. Un altro ascoltatore dice: non oso immaginare il Movimento 5 Stelle nelle stanze dei servizi segreti, che sballo. Integralisti antidemocratici, dice Roberto, questi sono i 5 Stelle. Sì, è giusto occupare il Parlamento ed è democratico, dice Amalia. Se cercare di far partire commissioni è anticostituzionale, l'iniziativa non è antidemocratica. Perché si lamentano gli altri, dice Enzo da Milano. È giusto, e se ne le occupano i grillini, fra un po' le occupiamo noi cittadini. Parole grosse di Claudio da Trento. Vi ricordo che tutti i giorni noi abbiamo deciso di lavorare molto su questa parte della questione politica del paese, perché anche se qualcuno come Giovanna da Treviso dice che sono quesiti demagogici, sono domande che si pongono tutti, nel senso che la giornata come oggi in molti, basta vedere su Facebook, su Twitter, dove noi abbiamo la pagina e il gruppo, ma anche vedere queste centinaia di vostri SMS per capire che queste sono domande precise. Il fatto che molti si chiedono se è democratico o antidemocratico occupare anche solo simbolicamente una sede istituzionale come il Parlamento. C'è chi come Orietta dice che Bersani dimostra odio e disprezzo per colui che considera nemico anziché avversario da vincere con libere elezioni. C'è chi come Roberto da Roma dice che le commissioni vengono composte in proporzione ai seggi, non in conseguenza della maggioranza di governo, e quindi secondo Roberto è giusta l'occupazione. E un altro ascoltatore dice che il Movimento 5 Stelle fa le occupazioni invece di risolvere i problemi. E un'altra ascoltatrice, Gea da Milano, dice che tutto questo, cioè l'occupazione delle aule consigliari, delle aule delle commissioni, è antidemocratico e soprattutto inquietante. Bene, ci risentiamo domani alle 13.30 come sempre con Daniele Biacchesi in studio e la redazione romana che sta seguendo ormai da giorni, esattamente dopo il 25 di febbraio, il non formarsi del nostro governo. Un saluto a tutti da Daniele Biacchesi.